che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Bentornati a un'altra puntata delle Buonanotte Allineamenti. Siete qui con Mendo e siamo su Ciao Como Radio. Come state? Tutto bene? Io sono tornato questa settimana dal Brasile per trovarmi in questo freddo glaciale qua a Como, porco Giuda. In Brasile ci sono 35 gradi, si sta bene, si balla tutto il tempo, si beve. No, non è vero, si lavora sempre comunque. E oltre a lavorare ci si toglie pure i denti del giudizio con delle avventure veramente improponibili. Non so se ve l'ha già raccontate Gas, ma ve le volevo raccontare anch'io. E per il momento vi lascio con una canzone che sto ascoltando a ripetizione, Georgia Smith con Teenage Fantasy. L'album si chiama Lost and Found, è uscito l'anno scorso e vi consiglio di sentirlo perché sta ragazza è una bomba. A dopo. If I look into the future, do I really? said we don't seem to want it. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it. Teenage fantasy, Georgia Smith. We all want them, we seem to don't want it when we have it. E bentornati sulle buonanotte degli allenamenti, siete ancora qui con Mendo. E prima vi stavo raccontando della fantastica storia dei miei denti del giudizio. E praticamente ero in Argentina. In Argentina è stato divertente, ho fatto un sacco di festa, mi sono drogato, bevuto, ho visto un sacco di gente, ho fatto un sacco di giri. Finita questa fantastica gita di 2 settimane, mi sono usciti 2 denti del giudizio, mi è venuta una fantastica gengivite e ho preso 39 di febbre, contando che dovevo tornare in Brasile perché in quel momento stavo vivendo lì. Tornato in Brasile, stavo abbastanza uno straccio e ho chiesto alla mia fantastica collega cicciona, che oltretutto mi sta sul cazzo perché è una stronza, si può dire, in radio sì perché lo è, di darmi delle indicazioni su dove andare dal dentista. Lei molto gentilmente mi ha detto: ah, un amico fantastico, puoi andare da lui, è bravissimo. Allora, nel pomeriggio, con sti denti che mi stavano uscendo, tutto mezzo distrutto, prendo un taxi e arrivo in questo posto fuori da San Paolo e dico: dove sono finito? Una mezza favelas con una serie di una strada con una serie di negozi di dentisti, ogni 10 metri ce n'era uno, pieno di gente per strada, un casino della Madonna. Ho detto: qua mi portano via. Entro dal dentista e mi accoglie questa signorina super simpatica, molto gentile, che mi dice, mi fa le analisi, mi dice: ah, ok, possiamo toglierti, chiama uno specialista. Io lì mi sento già più tranquillo, dico: vabbè, sono finito in un posto un po' così, però almeno questa sa fare il suo lavoro. Arriva il giorno dell'operazione, arriva questo fantastico specialista, mi sdraiano sul lettino e lo guardo e gli stava tremando la mano. Dico: boh, questo fa il chirurgo, gli tremano le mani, già non era un bellissimo segno. Incomincia l'operazione, mi taglia la gengiva superiore e incomincia a scarrucolarmi dentro, sfrega, tira, sento sti rumori veramente da pelle d'oca. Al che dopo mezz'ora che mi sta operando esce dalla stanza lasciandomi mezzo aperto sul lettino e dico: cosa starà facendo? Rientra, mi guarda e in portoghese mi dice: vabbè, incominciamo col dente sotto. Incomincia a operarmi il dente sotto, passano altri 20 minuti, esce dalla stanza e rientra con altre 2 persone, di cui una era un'altra fantastica dentista, e mi guarda e mi dice: e incomincia a operarmi l'altra dentista. Questo dopo un'ora che mi stavo operando e mi aveva aperto la gengiva sopra, praticamente pugnalandomi a morte, mi avrà tagliato, non lo so, per 15 minuti buoni, non è riuscito a tirarmi fuori né il dente sopra né il dente sotto. Pensate alla mia sensazione di terrore, a trovarmi in Brasile con uno che mi ha pugnalato per le ultime ore, seduto sul lettino in mezzo a una quasi favelas con un'altra dentista che mi si avvicina per riuscire a completare l'operazione che questo stava facendo. È stato abbastanza agghiacciante, per dirlo in parole povere. E questa alla fine ce la fa, riesce a tirarmi fuori il dente sotto, mi ricuce la parte sopra e mi danno tipo un punto sopra un punto sotto. Il che dopo naturalmente 2 giorni mi provoca un'infezione in bocca che mi fa stare malissimo. Mi sono venute tipo 39 di febbre, stavo di merda. E che sono andato da uno dei dentisti più pettinati di tutto il Brasile, dove ho pagato probabilmente molto di più di quello che avrei pagato in Italia, e mi ha risolto l'operazione. Ma la lezione fondamentale di tutta questa storia è stato chiamare il fantastico mio grande amico Gastone, che mi ha insultato per più o meno 2 ore dicendomi che sono un coglione, perché io in queste cose devo chiamare o lui o mia madre per qualsiasi cosa mi succeda all'estero, e che avrei risolto la cosa molto più facilmente perché lui mi avrebbe detto: Mendo, devi andare dal dentista di Ronaldinho, perché in Brasile se ti vai a operare nelle cose pubbliche ti ammazzano. Ed effettivamente ci aveva ragione. Quindi ragazzi, se mai foste in un paese del quasi primo mondo, ricordatevi che dovete pagare per qualsiasi operazione medica e qualsiasi cosa vi succeda. Però questa è una storia divertente che racconterò ai miei figli. State attenti dove andate a farvi operare per i denti. E questo è tutto da questa fantastica puntata quasi brasiliana di allenamenti. Mi fa sempre piacere tornare qui in radio. Mando un abbraccio a tutti e passate una buona notte. Ciao. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.